Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno. Questa volta cambiamo subito il mio blog sul Sole 24 Ore, che è Guardie o Ladri. Lo trovate cliccando nello spazio Agorà sulla prima pagina del sito del Sole 24 Ore, oppure ci arrivate attraverso robertogalullo.blog.ilsole24ore.com. I temi affrontati sono quelli a me cari: legalità, illegalità, criminalità, economia criminale e quant'altro. Ma ora diamo la mail invece di questa trasmissione, che è un abuso al giorno @radio24.it. Mi raccomando, siano quesiti che non coinvolgano soltanto la persona che li presenta, ma siano di più ampio spettro, possano coinvolgere insomma moltissime persone, o quantomeno interessare e incuriosire moltissime persone che potrebbero trovarsi un giorno né in quella situazione che descriviamo, ma in una situazione che potrebbe proprio essere quella in cui è caduto un nostro radioascoltatore di Nova Feltria, in provincia di Pesaro Urbino, quindi siamo nelle Marche, Luca Caslini, che abbiamo collegato con noi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, racconti ai nostri radioascoltatori che cosa le è successo. Veramente devo dire, leggendo la sua mail, un iter terrificante a contatto, diciamo così, con la pubblica amministrazione. Ce lo racconti pure. Allora, io praticamente nell'agosto del 2004 avevo preso due verbali per divieto di sosta, fra l'altro per la stessa infrazione, di cui uno l'avevo preso circa alle 9 del mattino e uno alle 2 del pomeriggio. L'unica cosa è che io avevo trovato solo il verbale alle 2 del pomeriggio, l'unico che avevo trovato sul parabrezza della mia auto, che tra l'altro avevo contestato al prefetto di Milano, avevo fatto ricorso e avevo vinto il ricorso in quanto il verbale era stato giudicato non legittimo. Quindi ricapitoliamo che già questo è interessante, perché capita purtroppo di prendere due multe nella stessa giornata per la stessa identica situazione. Le ne prende una la mattina e uno il pomeriggio. Contesta, vince il giudice di pace. Dice... Io contesto solo la seconda, però, perché la prima, non avendola trovata sul parabrezza dell'auto, non ho potuto contestarla e non avendola mai neanche ricevuta a casa tramite raccomandata. Cioè io della prima multa, di quella delle 9, ne sono venuto a conoscenza solo quando mi è arrivato la cartella esattoriale, chiaramente con multa oramai raddoppiata più spese di notifica, perché io prima della cartella esattoriale non sono mai venuto a conoscenza di aver preso per la stessa infrazione un altro verbale. Quindi lei in buona sostanza si accorge dell'esistenza di questa seconda multa solo quando le arriva la cartella esattoriale. Esatto. E a questo punto quindi che cosa fa Caslini? A questo punto provo a contattare il comando dei vigili di Milano nell'ufficio verifiche, al quale spedisco la cartella, compreso anche l'esito del ricorso dell'altro verbale, quello preso alle 2 del pomeriggio, giustificando il fatto che comunque non avevo mai ricevuto la raccomandata, infatti è stata notificata per compiuta giacenza, cioè nel senso era rimasta giacente presso gli uffici postali, ma non c'è nessuna mia firma perché io non l'ho mai ricevuta, e ho provato a chiedere dello sgravio della cartella, di chiedere la cancellazione. Dopo tre mesi, mi tolgo una curiosità: lei è marchigiano ma lavora a Milano dunque? Lavoravo fino a tempo fa, adesso vivo nelle Marche, ma prima vivevo a Milano. Ho capito. Allora, a questo punto che cosa le dicono dunque di fronte a questa sua richiesta di sgravio, comunque di cancellazione, atteso il fatto che la seconda multa era esattamente identica alla prima, o viceversa? Mi dicono che comunque, essendo oramai cartella esattoriale, non si può più entrare nel merito del verbale, quindi l'unico modo per contestare la cartella esattoriale sono dei difetti di notifica, dei vizi di notifica della cartella, che in questo caso io, avendola ricevuta e avendo firmato, non esiste vizio di notifica. E comunque non posso più nemmeno ricorrere contro la cartella esattoriale perché sono passati più di 30 giorni dal giorno della notifica, però il fatto che io comunque avevo mandato all'ufficio verifiche del Comune di Milano un fax con la richiesta e la risposta mi è pervenuta solo dopo 3 mesi, quindi per me era quasi impossibile dopo dentro 30 giorni chiarire il fatto e riuscire a capire perché mi avevano notificato questa cartella. Quindi la morale è che comunque lei ha pagato quei 183 euro. Io non li ho ancora pagati, anche se temo che dovrò pagarli, perché se no la cartella esattoriale farà il suo corso e mi verranno pignorati, mi verranno bloccati i veicoli, mi verranno pignorati i beni, quindi sarò costretto a pagarla. Mi hanno consigliato di pagarla onde evitare tutti questi problemi. Allora, noi la storia l'abbiamo ascoltata ed è chiara. Sono sicuro che in questo momento chissà quanti radioascoltatori si ritroveranno in questa vicenda. Ma abbiamo la fortuna di avere collegato con noi il comandante della Polizia Municipale di Monza, il dottor Silvio Scotti, che è oltretutto uno dei maggiori esperti del codice della strada e grande esperto del Sole 24 Ore. Buongiorno Scotti. Bentrovati. Allora, partiamo dalla coda di questa storia, vale a dire, è vero che a questo punto non rimane nient'altro al nostro radioascoltatore che pagare questa cartella esattoriale? No, non è vero. Non è vero. Allora, innanzitutto, comunque, dopo aver ascoltato la vicenda, essermi informato, io spero che queste vicende non siano comuni, perché davvero in questo caso siamo di fronte ad una cattiva gestione della pubblica amministrazione. A me spiace, perché cerco sempre di individuare magari nei difetti delle procedure amministrative, ma in questo caso è stata proprio la questione gestionale che a mio avviso è stata deficitaria. All'attualità io credo invece che il nostro ascoltatore possa tranquillamente rivolgersi alla Polizia Locale di Milano e chiedere quello che è una pratica amministrativa abbastanza comune, che è il discarico della cartella amministrativa, che significa che il dirigente del settore può dire: benissimo, io rinuncio alla pretesa che ho nei confronti del signor Caslini perché ho accertato che esistono dei difetti di procedura e dei difetti sostanziali che comunque esporrebbero la mia amministrazione in un prossimo futuro ad un'azione di risarcimento del danno, o comunque per esempio all'azione di ingiustificato arricchimento. Ecco, quindi non è vero che non c'è nessuna strada, cioè, per tradurla in soldoni, io proprio lo dico in maniera volgare, il cittadino, il nostro cittadino Paolo Rossi o Michele Bianchi si presenta presso l'ufficio della Polizia Municipale di Milano, parla con un dirigente che chiameremo Mario Esposito e gli dice: caro Esposito, guarda che obiettivamente io ho una cartella esattoriale, ma vedi, il giudice di pace per la stessa identica multa presa nel pomeriggio ha detto che quella multa non era dovuta, quindi chiudiamola fraternamente e amichevolmente, fai questa procedura che si chiama di scarico della cartella amministrativa, siamo pari e patti, io me ne torno a casa e ti auguro buon lavoro. È così, Scotti? È così. Tra l'altro, secondo me, dopo, ripeto, aver analizzato tutta la vicenda, esiste addirittura una strada più diretta. Il nostro ascoltatore non ha mai avuto contezza di questa sanzione, di questo procedimento amministrativo, uno dei più tipici vizi che compromettono la validità della cartella esattoriale, e quindi dal punto di vista legale non ne è mai stato portato a conoscenza, ed ecco quindi che la cartella esattoriale rappresenta per lui una vera e propria sorpresa. Ecco Scotti, io non metto in dubbio che i suoi uomini, quelli che lei forma a Monza, quelli che ha formato in giro per l'Italia, sicuramente sono a conoscenza di questo, di questa possibilità, di questa procedura amministrativa, ma a suo giudizio in giro per gli uffici italiani, sia dei comandi di polizia municipale, ma non solo, perché qui ci troviamo di fronte ad un caso in cui è coinvolta la polizia municipale, ma potrebbero essere coinvolti anche altri uffici, ecco, a suo giudizio sono così preparati per ricevere una richiesta come quella che potrebbe già domani fare il nostro radioascoltatore negli uffici milanesi? Ecco, guardate, io sono convinto di sì, anche perché stiamo parlando della Polizia Municipale di Milano, che ha un'organizzazione veramente eccezionale, con degli uomini assolutamente preparatissimi, quindi credo che non ci sarà nessun problema. Magari può anche residuare in qualche comune minore, magari che non ha formato al meglio gli agenti, che magari questa procedura sia sconosciuta, ma non a Milano. Ecco, io di questo la ringrazio, però Caslini, mi pare che lei con la Polizia Municipale di Milano abbia parlato, no? Sì, anzi io mi permetto, se possibile, di dissentire con il dottor Scotti sul fatto che comunque una cartella mai notificata non sia più valida, perché a me è capitato di fare ricorso per un simile problema. A questo punto credo che sia un problema anche del postino che mi recapita la posta. Ho fatto ricorso al giudice di pace per una cartella, se non altro chiedendo di pagare solo l'importo originario della multa, e ho perso il ricorso di fronte al giudice di pace di Desio, dicendomi che comunque la cartella esatta, cioè il verbale, si considera comunque notificato per compiuta giacenza. Quindi però vuol dire che pubblico servizio. Ecco, ma qui il caso però, diciamo così, è incentrato soprattutto sul fatto che lei possa andare lì a dire non pago per questo motivo. Ecco, lei ha già avuto un contatto con la Polizia Municipale di Milano? Sì, io ho avuto un contatto con la Polizia Municipale di Milano, che mi hanno detto che comunque la cartella in questo caso non potevo più ricorrere e dovevo pagarla, e non c'era nessuna procedura che mi potesse permettere, diciamo, allora, lo scarico di questa, di questa cartella. Forte di quello che, codice alla mano, il nostro esperto, nonché comandante della Polizia Municipale di Monza, Silvio Scotti, ha raccontato in questa puntata, credo che le cose potrebbero cambiare. E ovviamente le chiedo di informarci se ancora dovesse avere un rifiuto, perché in questo caso potremmo nuovamente parlare della vicenda che l'ha vista coinvolta. Grazie per il suo intervento, grazie a Silvio Scotti. Io ringrazio in regia Giorgio Mattei, in studio Laura Faggin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.